Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Il primo tema di cui ci occupiamo questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori è un tema molto ampio, sono le prime misure prese dal governo Letta con una serie di proposte che toccano anche la vita quotidiana di noi tutti. Ben trovato al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, se ne sta parlando tanto in questi giorni, queste 80 misure per ripartire, ovviamente non parliamo di tutte 80, ma parliamo di quelle magari più vicine a noi, no? Certo, parliamo di quelle più importanti a nostro avviso e sono delle iniziative che il governo in questi giorni ha preso con lo scopo di rilanciare l'economia e augurarci che anche il problema dei giovani e della disoccupazione finalmente venga e comincia a venire interessato in maniera seria, perché veramente la situazione del nostro paese ormai è drammatica, fermo restando che c'è anche una situazione generale in cui comunque le imprese stanno versando di grandissima sofferenza per problemi di erogazione di finanziamenti e microcredito da parte delle banche, e poi c'è il problema sempre eterno di Acquitalia che in tutta questa vicenda ci sta sguazzando. Partiamo da cosa? Dalle bollette, che forse è il tema più vicino, un tema che tocchiamo spesso. Insomma, è stato annunciato uno sconto sulla bolletta energetica, poi bisognerà capire effettivamente, perché detto così è molto allettante. Sì, innanzitutto dobbiamo dire, Mirko, che in questo momento, in questo famoso decreto del fare, che così come è stato soprannominato dal ministro Letta, anche noi lo stiamo un attimino cercando di sviscerare, perché al momento è un decreto che rimane interessante nei contenuti, nei presupposti, ma stiamo attendendo tutti quelli che sono poi i dispositivi di attuazione. Certo, in questo momento vediamo anche noi con interesse la proposta di risparmiare sulle bollette circa per gli italiani per circa 550 milioni di euro, perché il ministro ha sottolineato che con provvedimenti di incentivazioni verso il biodiesel e verso le fonti energetiche alternative che il governo vuole stimolare, questo dovrebbe portare ad alleggerire la bolletta per le famiglie. Certamente è un provvedimento che potrebbe essere anche per molti definito una goccia sul mare, ma che comunque comincia ad andare in una direzione molto interessante, perché sarebbe un'inversione di tendenza rispetto a quello che è un andamento che in questi anni il mercato elettrico e il mercato del gas ha sempre avuto, e che certamente speriamo che abbia come interesse anche la salvaguardia comunque dell'ambiente, perché non vorremmo vederci colline coperte da pannelli solari o la realizzazione di centrali a biomassa in qualsiasi paese d'Italia. Sì, questo è un altro settore. Io stavo facendo adesso a mente un conto a spanne, insomma 550 milioni di euro diviso 55 milioni di abitanti fa 10 euro a testa. Sì, per quello io dico è una goccia sul mare in questo senso. Per noi sarebbe già interessante se ci fosse un'inversione di tendenza. Siamo molto titubanti sulle cifre, siamo molto titubanti su quelle che sono le iniziative, vediamo comunque se queste portano almeno ad avere, come detto, un'inversione su quello che è un andamento che in questi anni le bollette hanno sempre avuto, perché veramente non vorremmo che dopo la fine questo si traducesse solamente su un'autorizzazione a realizzare impianti di ogni genere, di ogni tipo, dove magari queste cose erano ferme per ovvi motivi. Un tema di cui spesso ci occupiamo con voi, di cui voi vi occupate quotidianamente, è quello delle cause, della giustizia. Anche su questo si va verso una spinta, un'accelerazione, insomma, per quanto riguarda ovviamente le cause civili. Sì, finalmente questa è una cosa molto, molto interessante, come hai detto, perché pare che voglia ritornare l'obbligo della mediazione civile, cosa che la Consulta aveva bocciato un paio d'anni fa, di cui sostanzialmente il cittadino ha la possibilità in maniera alternativa a quella che è la giustizia ordinaria, tramite una mediazione appunto, di risolvere quelle che sono una certa tipologia di controversie che ad oggi stanno bloccando ed intasando i tribunali. Addirittura il governo vuol dare modo e dare la possibilità di risolvere quelle pendenti negli ultimi 5 anni. Per cui questa cosa qua certamente la vediamo con molto favore e ci auguriamo che finalmente anche la mediazione civile possa trovare un importante un importante significato su quella che è la vita quotidiana di tutti i cittadini, perché oggi non è possibile che per un qualsiasi problema una persona debba rivolgersi ai tribunali civili ordinari e dover aspettare per anni e anni e anni quello che può essere anche una semplice banalità come una lite condominiale o un problema con la banca, insomma. Questioni fiscali, hai citato prima in apertura Equitalia, e ci sono anche qui delle novità. Sì, il problema di Equitalia ormai sappiamo tutti che è noto ed è un'agenzia di riscossione che normalmente il fisco utilizza per andare a riscuotere i debiti, solo che ci sono diversi modi che Equitalia adotta, di cui anche noi come Adico abbiamo sempre contestato, perché oltre ad essere invasivi sono anche per noi molto lesivi. Innanzitutto finalmente si parla che non è più possibile pignorare la prima abitazione nei confronti delle persone che hanno dei debiti con il fisco, salvo che questi non abbiano ville o castelli di una certa importanza, e soprattutto anche cominciano anche per le imprese potersi vedersi pignorate, ma fino a un quinto del valore del capannone, quindi non prima, mentre prima c'era la massima c'era il pignoramento totale. C'era il pignoramento totale, a prescindere da quello che era l'importo, e nel dubbio anche di come questa controversia si stava comunque sviluppando. Aumenta la possibilità di rateizzare gli importi con il fisco da 72 a 120 rate, e anche questa è una cosa molto importante. E si sta discutendo su quelle che sono le percentuali che Equitalia ha sempre voluto far pesare su quello che è un valore di una controversia come, diciamo, percentuale di guadagno, e quindi anche questa è una cosa importante, perché sappiamo che Equitalia può applicare, insomma, percentuali che arrivano anche al 12% su quello che è il valore di un'operazione, insomma. Per cui sotto questo punto di vista aumentano le tutele, ma il nostro augurio è che migliorino anche i rapporti con il fisco, soprattutto per i cittadini che troppe volte vengono all'Adico e anche per semplici problemi di semplice banalità come può essere una multa. È il caso di qualche giorno fa che una signora, per una serie di sue disattenzioni, comunque si è vista una multa da 74 euro arrivare fino a oltre 2000 euro. Capiamo che quindi, al di là di quelle che sono le colpe della signora, non è possibile che una cifra possa lievitare fino a questo punto. Un bravissimo cenno alla cosiddetta agenda digitale che riguarda internet e anche gli uffici pubblici. Sì, si parla di liberalizzare il wifi, che è una cosa molto importante, visto che oggi su internet bisogna puntare, secondo noi, moltissimo, perché comunque molti servizi, soprattutto anche quelli burocratici o di rapporti tra la pubblica amministrazione e il cittadino, è giusto che si vada verso la possibilità di poterli semplificare e renderli più accessibili al cittadino. E ci sono anche molto importanti novità per quanto riguarda l'abolizione di certificati inutili, come quello di sana e robusta costituzione e idoneità psicofisica, l'obbligo all'invio telematico dei certificati di gravidanza. Si parla anche di possibilità di eliminare tante altre scartoffie per gli impieghi part-time e attività, insomma, a basso rischio. E poi soprattutto si parla anche di ridurre quelli che sono i tempi di lungaggine della burocrazia, che vede per la prima volta la pubblica amministrazione, nel caso che risulti inadempiente, l'obbligo di indennizzare il cittadino qualora che si abbia la prova che, insomma, il cittadino nei tempi in cui la pubblica amministrazione si è dilungata di sbrigo delle pratiche è risultato danneggiato. E un rimborso di 50 euro al giorno per un massimo di 4.000 euro. Anche questa è una buona notizia, e con queste buone prospettive, che speriamo diventino concrete il prima possibile, noi ci diamo appuntamento tra un paio di giorni con un altro argomento. Grazie all'Adico e al presidente Garofolini, buona giornata. Grazie a te, Mirko, e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.